Socrate papi, bon disè, ma dieghe la diandoranti, no voglie, rosse mi savo, asto a chi venia, orchestra sanda, uca chi Gilbergo marife oggi, ma giorno mi sa di gianto sta o bimba. Florence Mousseni, Milani Caver, Cabasere, 5 étoiles Petronel, Ben, Mastiano, Veina, Aessal, Def Ebita, Akisole, Daniel Kupsa, Marie-Claire Chango, Brigitte, Kiambi, Oja, mi te yo mi ya ke jirba, luke mesa, ma kubi jislen, iren dembe, Rokia, Fabien, Asiatique, Aziz. Yo. Alegría. Alegría. Alegría. Alegría.